in un villaggio a 100 chilometri da Tripoli, poi verso Seba, più all'interno e al sud. Io credo che un'uscita dal paese avrebbe dato molto nell'occhio e evidentemente non sarebbe sfuggita, o almeno me lo auguro, agli intercettori della NATO che presidiano il territorio non solo per colpire ma anche per individuare movimenti sospetti. Quindi presumibilmente in Libia, ma lei immagina... È mia valutazione, sì, una valutazione personale, poi sa. No, è chiaro, nessuno lo può sapere, ma l'idea di un Gheddafi che, non so, si arrenda oppure tratta la resa non è nel carattere della persona, secondo me? No, Gheddafi deve essere costretto alla resa, cioè circondato, abbandonato da tutti coloro che hanno eseguito i suoi ordini criminali, come sta accadendo, generali che si arrendono, il capo delle forze di sicurezza che si è arreso, anzi è passato con l'opposizione, e ovviamente questo lo costringerà. È evidente a tutti che chi ha ordinato di bruciare dei prigionieri dentro i carceri, forse addirittura bruciarli vivi, insomma, certo non si arrende volontariamente perché gli piace l'idea, ma dovrà essere costretto dagli eventi. Ministro, ci può chiarire che la Farnesina non c'entri nulla oppure no sulla vicenda dei tre italiani, sulla quale c'è un po' di alone di mistero, che sono comparsi dopo un mese in carcere in Libia, nessuno ne ha parlato? Cioè... Questo è una vicenda effettivamente molto, molto strana e da accertare. Devo dire che, come tutti i nostri ascoltatori, neanche la Farnesina conosceva della presenza di questi tre italiani. Non sapevamo che cosa stessero facendo, ma soprattutto un elemento che fa riflettere: dopo la cattura di questi tre italiani, nessuno, quindi neanche le famiglie, i soggetti, le aziende da cui evidentemente dipendevano, se dipendevano da un'azienda, nessuno ha segnalato che erano scomparse tre persone. E siccome sembra che siano state tenute in questo carcere per un mese, come dire, l'esperienza di sparizioni di connazionali dice che la mattina dopo le famiglie sono a telefonare alla Farnesina per segnalare infatti, qualcuno è scomparso. Infatti. E nessuno lo aveva fatto. Comunque non sono agenti di intelligence nostri, questi le dice la Farnesina. Assolutamente no, non hanno niente a che fare con gli apparati dello Stato. Ministro, un paio di domande sulla manovra, sulla questione politica interna, perché la manovra partorita nelle modifiche ad Arcore pare già sull'orlo di modifiche. C'è una rivolta contro questa ministretta delle pensioni, secondo lei ci vogliono queste modifiche? Ma guardi, la ministretta delle pensioni, che riguarda molte persone, tra cui ad esempio anche me, è una questione assolutamente semplice da spiegare. Se si dice che chi può andare in pensione deve aver fatto 40 anni di lavoro, i 4 anni di università che io ho fatto non sono 4 anni di lavoro, sono 4 anni di studio, quindi io me li riscatto ai fini economici, e questo non lo ha toccato nessuno, ma ai fini della durata del lavoro io non ho lavorato 40 anni, ho lavorato 36 anni, quindi mi sembra assolutamente normale dire che il lavoro sia il lavoro effettivo ai fini dell'uscita e quindi del pensionamento, mentre quei 4 anni ai fini economici valgono e nessuno li toccherà. Però molte persone che sognavano di andare in pensione, che ne so, quest'anno si vedono cambiare le regole, no? Lo so, ma vede, le persone che sognavano di andare in pensione le posso anche capire, ma nel momento in cui il mondo cambia e bisogna far fronte alla necessità di dare le pensioni a quelli che sono giovani oggi e che forse tra 30 anni potranno non averla proprio la pensione se il meccanismo non tiene, quelli che sognavano di andare in pensione quest'anno forse potranno stare un altro anno in servizio. Io francamente non credo che questo meriti questo tipo di reazione. Comunque il governo valuterà se vi sono delle correzioni. Io personalmente credo che sia una manovra migliorata e non affatto peggiorata. Un'ultima domanda è questa, ministro, ma pare dai giornali che Tremonti sia tornato a Lorenzago con il cellulare irraggiungibile, ma le pare normale e credibile che il ministro in questo momento, il ministro più importante, insomma, abbia il cellulare irraggiungibile? Ma io infatti non ci credo. Ah, provate a chiamarlo col sensazione di Palazzo Chigi, ma io non ci credo affatto. Tremonti non è uno che si rende irreperibile. E allora, che c'è dietro? Che c'è dietro questo mistero? Io non lo so, ma certo a chi scrive ogni tanto piace inventare dei misteri sulle pagine dei giornali. No, il portavoce dice che è irraggiungibile, non è... Beh, probabilmente è una forma di tutela benevola del suo ministro, per evitare di coinvolgerlo ancora oggi, dopo che povero Tremonti non si è fatto neanche un giorno di vacanza. Ah, vabbè. Ma è così restio alla collegialità? No, è un tipo... Tremonti ha accettato nelle ultime vicende un metodo collegiale che forse in passato non aveva seguito, e io per primo avevo espresso delle critiche a questo comportamento. Devo dire che ho apprezzato invece che lui abbia, da persona intelligente, compreso che la manovra è del governo, non è di un singolo ministro, e che se il capo del governo ci deve mettere la faccia e assumersene la responsabilità, deve essere il frutto di un lavoro di squadra. Credo che ci debba dare atto a Tremonti di avere accettato con serenità, direi, questo metodo collegiale. Vabbè, intanto io la ringrazio, ministro, provi a chiamarlo per noi, insomma, che ci fa sapere se il telefono risponde. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata al ministro degli esteri Franco Frattini, per essere stato con noi. Allora, ci fermiamo per la pubblicità e meteo e poi parliamo. Un aspetto di questa manovra è il contributo di solidarietà che è saltato, ma qualcuno vuole che i calciatori e gli sportivi invece paghino per tutti, paghino doppio questo contributo di solidarietà. Questi calciatori, questi milionari che scioperano, no? Come si sente da molti. Paghino tutto, paghino tutti e paghino per gli altri anche. Che ne pensate? È il metodo giusto secondo di voi? 24 mattino. E allora, nella manovra in cui il contributo di solidarietà non c'è, è scomparso, rimane però per i parlamentari, rimane anche per i dipendenti pubblici, per la verità, e qualcuno vuole e lo propone in emendamenti che soprattutto venga non solo mantenuto, ma venga raddoppiato per gli sportivi, e tutti guardano ai calciatori, quei calciatori che molti dicono si permettono di scioperare. Vi sembra un metodo giusto? Di questo ne vogliamo parlare. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, quando si pensa in Italia così da sempre ai ricconi, la prima immagine, no? Ecco i calciatori, e molti ci scrivono, sempre tirano solo due pedate al pallone, sono milionari e si permettono di scioperare e si lamentano se li vogliamo fare pagare. Ecco, questo è il clima. Voglio salutare intanto, poi ne parliamo più pacatamente, Damiano Tommasi, buongiorno. Buongiorno. Damiano Tommasi è il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori. Saluto anche Oliviero Bea, giornalista e scrittore, giornalista del Fatto Quotidiano. Buongiorno Oliviero, ben ritrovato. Buongiorno. Con la sua edizione Il Calcio alla Sbarra, nuova edizione, il suo ultimo libro. E saluto anche Matteo Salvini, eurodeputato della Lega. Matteo Salvini, buongiorno. Eccoli qui. Buongiorno da Bruxelles. Voi siete i cattivoni, quelli che qua abbiamo Damiano Tommasi, quelli che volete far pagare tutto, di più, il doppio, paghino loro per tutto, insomma, ma non è un accanimento, Salvini, che c'entrano adesso i calciatori? No, paghino tutti, tranne quelli del Milan, ovviamente, che è la mia squadra, e questo sarà un subemendamento. Detto questo, al netto delle demagogie, chiarendo evidentemente che il problema non sono i calciatori, le veline o i presentatori di Sanremo, già mi è dispiaciuto che dalla manovra sparisse il cosiddetto contributo per tutti i redditi sopra i 200.000 euro, perché in un momento economico e politico come questo chi ha di più è tenuto a pagare di più. E quindi, poi magari entreremo nel merito, mi ha quantomeno stupito, non uso parole forti come indignato, però mi ha quantomeno stupito che proprio in un momento come questo calciatori e presidenti si siano messi a litigare offrendo uno spettacolo che ha aggiunto tristezza a tristezza. Non mi sembra chiedere troppo, non parlo degli Ibrahimovic che guadagnano 10 milioni di euro, ma mi sembra che anche uno stipendio di un calciatore di Serie B o di Serie C abbia parecchi zeri dopo la prima cifra. E quindi cos'è, una cosa minori. E quindi è una cosa un po' punitiva anche, cioè paghino. No, non punitiva, per quanto mi riguarda, ripeto, e su questo come Lega insisteremo, tutti, ma non i calciatori, i presentatori televisivi, gli attori e quanti altri guadagnino cifre da centinaia di migliaia di euro, sarebbero tenuti a dare la loro, calciatori compresi ovviamente. Certo, allora prima di sentire appunto il rappresentante dei calciatori, Oliviero Bea, non solo la Lega ma anche Elio Lannutti dell'Italia dei Valori ha proposto un emendamento alla manovra di contributo di solidarietà per i percettori di grandi redditi da attività sportiva, e tutti ovviamente guardano soprattutto ai calciatori. Allora, che cos'è, Oliviero Bea, un altro impazzimento di questo momento che sta vivendo il mondo del calcio e l'annessa politica che guarda il calcio, o che cosa? Ma intanto tutto l'insieme della manovra è un pasticcione ancora da diradare, con nebbia da diradare e contorni da definire. E questo contributo di solidarietà ha fatto discutere, riferito ai calciatori, in un momento in cui era appunto ancora tutto da varare, quindi già questo la dice lunga. Poi io, a dir la verità, non ho aspettato oggi, e naturalmente sono contentissimo di partecipare a questa trasmissione, ma venerdì scorso, il giorno di maggior casino, perché si era capito che non avrebbero giocato, blasfemia, bestemmia in chiesa, una giornata senza pallone in Italia, e io dissi a Sky TG24: non parlate di sciopero, per favore, il termine è equivoco, mediaticamente siate corretti. Poi si può discutere del calcio, si può discutere di un sistema che è molto malato, delle cose che non vanno, alcune delle cose che ha detto Salvini mi trovano d'accordo all'inizio sul discorso più generale e non segnatamente su questo, ma sul discorso più generale mi trovano d'accordo a scanso di equivoci. A questo punto non discuterei nemmeno la faccenda di Lannutti, ma dal mio punto di vista, ma allora a questo punto mettiamoci dentro pure i giornalisti, mettiamoci dentro tutti quei quelli che guardano, cioè riparliamo seriamente, ma in termini generali, di patrimoniale. Questa è l'unica cosa vera. Detto questo, continuare a prendere con i calciatori, ignorando che ci sono i calciatori di Serie A, e Tommasi è presidente di un sindacato che non riguarda solo loro, questo va precisato, anche se la battaglia era solo per quello, parlare solo dei calciatori di Serie A come se in un momento di difficoltà, di crisi e via dicendo, il giorno prima si fossero svegliati male è anche mediaticamente, oltre che eticamente scorretto. Questo era lo dirà lui meglio di me, era un contratto collettivo in discussione da un sacco di tempo, quindi almeno risparmiamo ai tifosi, come si dice, al cosiddetto popolo bue, la presa per i fondelli. Sì, anche se è passato questo messaggio, appunto io vorrei, Tommasi, io devo dire, spezzare una lancia nei confronti dei calciatori su questa vicenda. Effettivamente è passata questa idea che voi, lei come rappresentante dei calciatori, e i calciatori capricciosi abbiano voluto, insomma, puntare i piedi e dire no, non giochiamo. E in questo momento dell'Italia suonava con uno stridore quasi inaccettabile per molti, ma come, i milionari che si permettono di scioperare. Ci dica qualcosa sullo sciopero e anche su questa cosa del contributo di solidarietà, ma che vedete, accanimento contro il vostro mondo che presentano emendamenti proprio contro i calciatori? Ma intanto ringrazio di essere stato invitato. Tutto parte da un presupposto sbagliato, nel senso che anche l'emendamento è frutto di un equivoco iniziale in cui le prime parole era: come, i calciatori protestano per il contributo di solidarietà? Questo è un falso, perché nessun calciatore si è mai permesso di protestare su un eventuale contributo di solidarietà, nessun calciatore ha detto una parola a riguardo. È stato montato il caso ad arte 10 giorni prima dell'inizio del campionato, quando si sapeva che c'era una vertenza in atto in corso con la Lega di A, quando si sapeva che era 10 mesi che si discuteva del mancato rinnovo dell'accordo collettivo, quando si sapeva che i calciatori avevano dichiarato che non sarebbero scesi in campo, proprio per spostare l'attenzione sui problemi che ci sono tra la Lega e l'associazione dei calciatori dal punto di vista economico, che, come abbiamo sentito, insomma, si è ancora convinti che i giocatori di Lega Pro, di Serie B, siano i paragonabili ai grandi campioni delle grandi squadre, quando in realtà, insomma, un accordo collettivo riguarda anche i calciatori, che probabilmente parecchi non sarebbero neanche rientrati nell'eventuale contributo di solidarietà riguardo il loro reddito. Questo, poi, se vogliamo discutere del campionato che si è fermato, è un discorso. Se vogliamo discutere sono due cose diverse, effettivamente. Sul contributo, che ne pensa? Perché, ad esempio, Calderoli ce l'ha con voi. Non si capisce. Ieri Gigi Riva, grande ex campione, responsabile anche nel mondo della nazionale, dice: ma che c'ha Calderoli nei confronti del mondo del calcio? Magari tra poco lo chiederemo anche a Salvini, che lo conosce. Voi vi siete dati una spiegazione, Tommasi? Cioè, che c'ha Calderoli? Il problema è abbastanza ampio e non risolvibile in 10 giorni di discussione, servono anni per perché ormai nell'immaginario collettivo il calciatore ha tutto, ha tutti i privilegi e non li merita. Tradotto, sta facendo una cosa che potrebbero fare tantissimi altri, solo che lui ha quella fortuna di farlo in un palcoscenico che prevede delle remunerazioni particolari. Insomma, non è vero assolutamente. Insomma, il calciatore lo fa in quel palcoscenico perché ha superato un tot di esami, perché ha superato una concorrenza spietata, perché ha delle doti, perché si è impegnato, perché è stato fortunato a non farsi male in certi periodi della sua vita e perché fa parte di un circuito che muove parecchi soldi. E insomma, non dimentichiamo che il mondo del calcio, appunto perché i calciatori sono inquadrati come dipendenti, di tasse allo Stato ne versa parecchie, e penso che come industria sia abbastanza produttiva non solo per gli attori e per chi li organizza lo spettacolo, ma anche per lo Stato. Quindi, insomma, una difesa anche della figura del calciatore. No, ma senti, Salvini, che c'ha anche come contribuente? Anche come contribuente, beh, certo, guadagnando molto, paga anche molto. Salvini, che c'ha Calderoli, lei che lo conosce, nei confronti del mondo del calcio? Ha detto ieri: sono mefistofelico, non ce la faranno a non pagare doppio i calciatori. Conosco le passioni calcistiche di Calderoli e quando ci parliamo di altro, perché sì, gli italiani non passano da centrocampo evidentemente. Però ripeto, quello io curiosavo sui blog, sul sito di Radio 24, sul blog di Oliviero Bea, del Fatto Quotidiano, e non è Calderoli, è il 98% di chi legge, di chi ascolta, ritiene che in un momento come questo tutti, calciatori compresi, siano chiamati a fare la loro parte. Perché mi risulta che la media degli stipendi, ripeto, non degli Ibrahimovic, ma della Serie B e anche della Serie C, ci siano stipendi che superano i 200.000 o 300.000 euro in Serie C. Ma alcuni, però Tommasi invece ci sta dando uno spaccato, diciamo, del mondo del calcio diverso. Il calciatore medio di Lega Pro prende sicuramente più di un medico che sta lavorando e sta operando in questo momento. Quindi è chiaro che un certo tipo di posizione, se la prende un medico, se sciopera il medico, ho un certo tipo di considerazione. Siamo tutti lavoratori, anche i lavoratori sono calciatori indubbiamente. Scioperare da parte di un calciatore, diciamo che mette sicuramente da fastidio. Va bene, da fastidio. No, ma prima che replichi Oliviero Bea su questo, anche perché questo termine sciopero, insomma, Bea lo contesta. Sciopero comunque, insomma, non sono sceso in campo. Sentiamo che ne pensa Cristina da Padova. Buongiorno, ci ha chiamato all'800 24 0024. Cristina. Sì, buongiorno. Io premetto che non sono una grande tifosa. Vabbè, ma non importa. Il mio discorso riguarda un po' tutte le categorie di cui si sta parlando. Volevo soltanto sottolineare, secondo me, questo aspetto. Cioè, l'Italia sappiamo che in questi ultimi anni ha visto un processo di diversificazione enorme di redditi tra categorie molto redditizie e categorie di persone che lavorano e guadagnano cifre ben, ben diverse. Allora, mi pare che si stia parlando di categorie che difendono i loro privilegi, quindi non parlo solo dei calciatori o dei grandi imprenditori, ma anche dei politici, di tutti coloro, insomma, che hanno dei redditi molto alti. È l'Italia delle caste, Cristina, lei ha scoperto questo, cioè che ognuno difende il proprio privilegio e dice paghi l'altro, no? Esatto. Vabbè. Allora, io trovo che tutte le persone, diciamo, che hanno un reddito invece al di sotto di un certo livello, si trovano a dover pagare sempre, e questo ormai è un discorso che mi spiace anche farlo, perché lo sento fare in continuazione dalle persone normali che io frequento, anche alla radio, anche alla televisione, però non vedo che cambi assolutamente nulla come atteggiamento da parte dei politici. Cioè nessuno riesce a far prelevare i soldi, e quindi nell'Italia le piccole caste alla fine pagano i soliti, lei dice. Esatto, Cristina, esatto. La ringrazio. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Allora, Oliviero Bea, lei l'ha capito che c'ha qualche che qual è il problema di qualche rappresentante della politica nei confronti del mondo del calcio? O è un modo, come qualcuno dice, per distrarre, da buttare tutta la croce addosso a qualcuno per distrarre dal fatto che, ma, in realtà il problema è più complesso? Come diceva quello, mi sembra più probabile la seconda che ha detto, nel senso che almeno il sospetto forte di una cosa del genere c'è, al di là del fatto che a Calderoli, parlando dei calciatori, dolgano i denti. E il punto è, secondo me, uno, intanto merito a trasmissioni come queste che invece che di far disputare dei derby di parola pro o contro cercano di spiegare come stanno le cose, e magari lo facessero tutti, quindi lo dico perché stiamo parlando, ma credo che sia un nodo centrale del modo di comunicare, perché poi la gente si forma un'idea in base alle informazioni che riceve e al modo in cui vengono loro date, quindi darle in un altro modo e cercare di discuterne è già un segno di civiltà. Poi, a proposito delle casse e tutto il resto, questo è un paese in cui la forbice fra ricchi, molto più ricchi ma sempre meno numerosi, e poveri vale per tutti, vale per i medici come sa Salvini, vale per i calciatori. Io conosco molto bene, anche per questioni familiari, la situazione della C1 e della C2. La maggior parte delle società, per esempio di C2, sono ridotte allo stremo, sono giocatori che non vengono pagati, con difficoltà continue, che guadagnano il minimo di stipendio che è 1050 euro, una cosa di questo genere, Tommasi mi corregga se sbaglio, quindi con difficoltà di vitto e alloggio, sono alla lettera dei poveracci, che però comunque hanno una carriera limitata nel tempo, quindi voglio dire, uno fa il medico, lo fa per 50 anni o quello che è, nel caso del calciatore lo fa per... Quindi insomma, attenzione, ci sono sempre più ricchi, per capirci Ibrahimovic e pochi altri, e poi a scalare invece ci sono una serie di disgraziati, fra virgolette, che fanno parte di un mondo del calcio che andrebbe rivisto. Ultimo punto, che cosa doveva fare l'associazione calciatori, visto che da mesi parlava di un articolo 7 che è molto preciso e molto molto giusto, interessante sul piano etico, organizzativo, logistico, tirando quel lembo del gomitolo viene via tutto, ma è giusto che si discuta di tutto. Due giorni prima del campionato sbracare e dire, ma come, ve lo diciamo da 10 mesi, adesso giochiamo perché così almeno gli italiani sono più contenti in un momento in cui il paese di difficoltà. Però vorrei capire, Tommasi, che cosa è mancato dal punto di vista della comunicazione, perché quello che ci dice Salvini, la percezione della gente effettivamente che voi viziati, milionari, avete deciso di non scendere in campo. Cosa è mancato? Cioè, perché è passato questo messaggio? Non siete stati capaci di comunicare le vostre ragioni? Ma è quello che sta accadendo anche in questa trasmissione. Nel mio precedente intervento ho detto che i calciatori non sono mai lamentati della tassa, anzi è stata tolta dai politici l'emendamento, non dai calciatori. I calciatori non si sono mai lamentati della tassa, quindi si ragiona sulla classe dei calciatori come quelli che guadagnano tanto e hanno pure il coraggio di lamentarsi su una tassa che dovrebbe colpire i redditi più alti. Niente di più sbagliato. I calciatori non si sono lamentati per la tassa, chi si sono lamentati della tassa sono state le società, perché andava a colpire probabilmente contratti fatti nell'illusione o nella speranza che venissero abbassate le aliquote IRPEF, assumendo loro l'onere e il rischio dell'eventuale abbassamento di aliquote. Quindi i calciatori non si sono mai lamentati e mai si lamenteranno del pagamento delle tasse, a maggior ragione quelli, come ha detto Oliviero, della Lega Pro o della Serie B. Neanche vi lamentate di questo, neanche vi lamentate di questo eventuale emendamento dovesse passare, che sia raddoppiata per... Abbiamo perso 2 settimane a discutere sul contributo di solidarietà, e in 2 ore lunedì è stato tolto il problema dal tavolo. Non vorrei iniziare a perdere tempo a discutere su un emendamento che magari non passerà. Ma magari sì, magari sapere... sì, chi lo sa, magari passerà, chi lo sa. No, allora in quel momento magari ci sarà da capire la ratio di un emendamento di questo tipo, se è per colpire dei cattivi o delle persone che si sono lamentate, questo mi sembra sbagliato, se è per colpire una classe particolare perché ha redditi particolari, non lo so, perché forse è l'unica economia oggi che riesce a dare allo Stato un flusso di contributi particolare, questo non lo so quale sia la ratio dell'emendamento. Sì. Di certo i calciatori questo fine settimana non si sono certo fermati per il discorso delle tasse. Sentiamo Francesco da Caserta, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo intervenire innanzitutto dicendo che a mio parere il fatto il calciatore in rapporto con le proprie società è un fatto privatistico, sì. Cioè, nel senso non può essere governato dallo Stato se non con l'imposizione, con le tasse, ma in questo caso non discriminando uno che fa il calciatore rispetto ad altri. Non lo è invece privato il debito pubblico che ci hanno lasciato e il fatto che chi l'abbia generato abbia dei privilegi così assurdi. Per cui mi sembra strano che proprio in un momento in cui tutte queste difficoltà e tutti questi ragionamenti sulla manovra, uno pensi al calcio e sposti l'attenzione sul calcio, prova ne è che noi oggi stiamo parlando di calcio e non di manovra. Sì, beh, è un aspetto della manovra, eh. La manovra ne parliamo, guardi, a Radio 24, tra poco Giannino parla delle pensioni, Deborah Rosciani parla delle pensioni alle 12, ne parliamo 24 ore su 24, questo è un aspetto della manovra questo, guardi, Francesco, perché sì, l'emendamento... Ma è guidato da chi vuole spostare l'attenzione del pubblico da problemi seri a problemi che non esistono, a mio parere. Questo lei dice, come si diceva, Salvini, allora l'accusa, come diceva anche Oliviero Bea, come ho ipotizzato anch'io, è spostare il problema sul calcio, come se, quando invece la politica, quando doveva tagliare le province, le ha rimandate a babbo morto un'altra volta, quando doveva tagliare i parlamentari faremo un bel disegno di legge costituzionale. Allora Salvini chi è? Stiamo spostando dai reali problemi per buttare tutto addosso ai calciatori? Guardi, da ieri come Lega ci stiamo occupando e preoccupando per l'anno di militare e per gli anni di studi universitari, sì, non riscattabili ai fini della pensione, che penso sia un problema un tantinello più serio e coinvolgente, certo, che non quello dei calciatori. E la panna evidentemente fa notizia, non so, giornali, radio, televisione l'hanno presa come notizia, d'altronde non, probabilmente ha ragione Tommasi quando dice che non c'è una corretta informazione che riguarda i calciatori, riguarda la politica, perché è vero che i calciatori non sono tutti Ibrahimovic, come è altrettanto vero che i politici non sono tutti ladri, è qualcuno che fa il suo mestiere, viene pagato per fare il suo mestiere, perfino in politica c'è, nonostante anche su Radio 24, magari nella trasmissione sportiva del pomeriggio che io seguo sempre, il dottor Garanzini non sempre abbia questa onestà di giudizio, però dello stipendio dei calciatori mi interessa poco, onestamente. Spero che la manovra corregga quello che riguarda l'anno di militare, ho capito, però... contenga la tassa di solidarietà per i calciatori, che ricomincino a fare quello per cui sono pagati, cioè giocare a pallone. Il problema vero sono le rose da 30-40 giocatori, le 140 società fallite in questi anni, il riciclo di denaro che c'è nel mondo del calcio. Se chiedete a me, io sono per il calcio dove le magliette andavano dal numero 1 al numero 11, dove si giocava la domenica alle 3 del pomeriggio e dove non c'erano le dirette Sky. Però insomma anche questa cosa delle, dice, sulle pensioni stanno cercando di correggere, anche lì il messaggio degli italiani è che è dire ma come, ma avete fatto un vertice nel quale avete deciso delle cose e c'era anche la Lega, ovviamente c'erano Bossi, Maroni, Calderone. Guardi, purtroppo siamo azionisti di minoranza nella maggioranza di governo. Avete subito un po'. Su 11 calciatori noi ne abbiamo in campo 3. E quindi è chiaro che siamo responsabili di quello che accade. Se vinciamo, se perdiamo è anche colpa o merito nostro. Però purtroppo 3 calciatori su 11 non riescono a fare la squadra. Insomma, Oliviero Bea, ci stiamo dilettando un po' sul nulla, mi sembra che... No, ma io invece difendo questa cosa, è un aspetto, ogni giorno troviamo un argomento diverso, è un aspetto della manovra anche questo, se si vuole anche un po' di colore, è vero, no? I giornali ci hanno un po' ricamato su questo aspetto del... È tutta panna montata, come dice Salvini, stiamo guardando la panna rispetto alle cose più importanti? No, se non altro per il fatto che se le cose risultassero appunto come le stiamo dipingendo, cioè un modo per parlare d'altro, anche se è un altro che è comunque interessante e fa parte del discorso sulla manovra, se fosse così sarebbe centrale, perché come al solito andrebbe al cuore il problema di un paese che sposta l'attenzione. Per carità, non lo facciamo solo noi, non lo fanno solo da noi, ma di sicuro da troppi anni si sposta l'attenzione e si dà l'impressione agli italiani che si parla di una cosa in realtà parlando d'altro, ci si siede a un tavolo in realtà con l'idea di sedersi a un altro tavolo. Ecco, ritrovare un minimo di trasparenza e di onestà intellettuale riguarda tutti, dalla categoria di una classe dirigente che è quella che è, ha ragione Salvini, non bisogna generalizzare, però diciamo che la proporzione è spaventosa, in senso negativo, fino a un sistema calcio che fa gioco a una classe politica, adesso fa gioco parlarne male, in altri momenti fa gioco distrarre come arma di distrazione di massa gli italiani. Pensi adesso, dico a Tommasi l'ultima provocazione per farmi odiare un po', pensate a un anno senza calcio, io sono un grande appassionato anche se forse non sembra, ma pensate a un anno senza calcio, sarebbe disintossicare gli italiani, forse comincerebbero a ragionare sulle cose serie. Tommasi, un anno senza calcio, no, non vogliamo pensarci, molti direbbero, no, no. Sono già molti che dicono, so già, meno male, magari, però la maggioranza degli italiani poi amano no, questo sport. Sono troppo convinto che il calcio non è solo quello che va in televisione, è anche quello che si gioca per strada, per pensare che gli italiani dimentichino il calcio così. A proposito di giocare, la seconda giornata si gioca, abbiamo sentito che l'accordo pare vicino, si gioca? Tommasi, si giocherà, si riprenderà? È stato anche qui forse capito male, che sembra che i calciatori non vogliano giocare. I calciatori vogliono giocare con l'accordo collettivo firmato il più presto possibile. Certo, cioè si firmerà, quindi c'è speranza. La speranza ovviamente io no, ne ho parecchia e soprattutto convinzione che insomma, siamo vicini. Siamo vicini. Va bene, intanto io con questo vi saluto e vi ringrazio. Damiano Tommasi, il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Oliviero Bea del Fatto Quotidiano e Matteo Salvini, europarlamentare della Lega. Allora andate sulla nostra pagina Facebook 24 Mattino, dove lì continua la nostra discussione. Diventate nostri amici se volete. E ringrazio Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè in regia. Domani 7:20 puntuali, siamo qua. A domani.